Anche a Monaco nessuna tregua. 16 dicembre. Anche le tre settimane passate a Monaco furono senza pace. Già il secondo giorno vidi venirmi incontro una figura di donna, con mani aggressive, deformate dal dolore. Essa continuò poi a venire tutte le notti tanto da essere quasi insopportabile. Deve essere stata una domestica, perché portava un grembiule e vestiva dimessamente. Poté poi finalmente parlare. Si chiama Anna, ed è molto calunniato. Alla domanda per quanto tempo ancora dovrò andare in giro, rispose, 3 volte a vento. A Monaco vidi pure una cosa molto interessante. Mi trovavo nella casa del celebre pittore Francesco von Lenbach presso conoscenti. Nota. Francesco von Lenbach fu uno dei più celebri ritrattisti del suo tempo. Fu amico di Böcklin e di Bismarck, di cui egli fece circa 80 ritratti commemorativi. Morì nel 1904. Mentre si stava mangiando, questi apparve improvvisamente di fronte a me, orrendo, come una bestia, ma perfettamente riconoscibile. Io lo conobbi molto bene quando era vivo. Io mi spaventai talmente che gli altri se ne accorsero e mi chiesero se non mi sentivo bene. Non guardai più, ma sentivo la sua presenza. Alla fine del pranzo, lo vedevo ancora. Non lo vidi invece più negli altri locali. Anna viene ora anche a Val. Io, come vieni anche qui? Lei, ti sono sempre vicina. Io, ma io non ti vedo sempre. Lei, tu non lo puoi sopportare. Io, perché no? Anna, la tua anima non è ancora libera. 22 dicembre. Lei fu qui quasi tutta la notte, ed anche altri. Io le dissi, ora l'avvento è quasi finito, dopo non vieni più. Lei, tu pensi in maniera umana. Io, non posso fare diversamente, finché sono in vita. Anna, tu puoi liberarti. Poi disparve. 24 dicembre. Essa tornò. Io, dimmi, come posso liberarmi? Lei, se tu segui quello che ti attira. Io mi spaventai perché non lo voglio sapere, almeno non da lei. Credo comunque di capire che la cosa abbia a che fare con il meraviglioso sentire, che ora mi assorbe tanto che mi sento come staccata da me stessa, in un altro mondo. Potei osservare che quando viene quella sensazione, il mio corpo perde la possibilità di muoversi. Ho provato a sprangare la porta, quando sentii che si avvicinava quel sentimento, ma non ne fui più capace. Dopo venne la luce ed io ero indifferente a tutto. Solo gustare fino in fondo.